Maria? Pensa a Gian Maria. Ma cosa vuoi a Gian Maria? Cosa li vuoi a Gian Maria tu, Bobbo? Bobbo, chi sei? Natalino sono, Gian Maria è matta con la moglie adesso, pensando a testa. Sì, ma che magari verrà, non intendi, per la mano abbasso. Ma non è che siete fidanzati, non tutti e due? Tu e Gian Maria, eh? Già ti credo. Bobbo! Stiamo innamorando. A me mi sembra che ti sta tradendo. Adesso deve essere matta con la moglie. Ah, sicuramente sta guardando il televisore e non sente l'apparecchio. O c'è gente, come ieri. Gian Maria, dove va gente? Ci va tutto. E allora la sta lì. E allora 60 minuti dopo. Ma non conta, Gucci, Gucci quasi un'ora. Sempre 60 minuti so. Andiamo, andiamo. I rugani si è assaggiati. Allora, non hai mangiato. Ma che cosa? Finisci. Via ginocchi da rizzo, io drummendo, che è Santo Lazzaro. Io invece sempre allerta, Come ti intendi, Romini mi chiamizzi? Il suo... Tu devi dire, sempre a Bagelli, mamma mia. Ah, io sono Bagelli, drummendo, non parolito. Mi ha da Edo. Lo sai che Bagelli pensa mentirosi, Edo. Cosa che ha già lavorato un bel. E allora, cosa mi racconta Edu, se tu stai di bagalaruzzi, un telefono, chi dà? Torna, sciotte! Edu, non fare i pensamenti dolci, fai i drome tranquilli. Ascolta! Io ti credo. Fai andate se buona sognasse, buone. E allora, anche con noi, Edu non ha pensamenti, non ha di bagare i tassi, nudo. Ma sai che magna e drome? Allora che mettendo rumori e poche allertami. E sono tutti i cani, così pure uno mio. Come ti intendi rumini mica muzzo, lo vuoi vedere alla gente, è sempre allerta, Certo, bello. Ma solo quando si comincia a copiare caffè per tardo, comincia a tremurarsi. Ma di mai non si chiede a mia moglie. Ma non si chiede a chi? E gli ha messo il piede involontariamente perché lui era nascosto, no? Non l'ha visto, Ha messo il piede, ho detto, ma pure la riccio, non faccio un po' di voci. A chi si muove in mezzo, mia moglie non l'ha visto, di la sera praticamente gli ha appoggiato il piede poco a poco, oggi mai se la magna. Piccolo amico, è cane, mai non si muove. Oh mio, pare un po' di pari. Allora la viserlata mi ha arrivato un giro. Ma che dimmi un po' si è accavato, mi roboso. Davvero. Purtroppo, gli animali sono gli animali. Hanno dei assai dovigliori. Tu non vuoi compagnia, vedi delle lasciani. Ah no, ero doio quindi. Mi figliora sei a Londra, prima era via a Londra. Ah, dopo se che dovuto assai io a Genova a pigliarli. Ah, ed è a Rugani, bubu. Oh, Rugani giuro. Prima c'era anche la Lupa, c'era. Era insieme alla Lupa. La Lupa l'ho data. La Lupa è Alghero adesso. Vedrà che c'è tipo, virà, carariera. Vabbè, allora passo in QRT che tra un po' mi devo misurare la cosa. Ci sentiamo alle prossime, dai. Sì, ok, ciao Natali. Comunque si sente abbagliando, Inteso, dai. Allora, dai. Tu sei mangiato. Cosa vuole mamma? È poco intelligente. No, ce l'hai ancora. Quando mi dice pure quando deve andare a fare la pipì fuori, allora io lo faccio scendere, lo guardo dalla finestra, no? quando ha fatto se ne stava da solo. Tu c'è curva. E allora lì non tetto di gusto io come primi. Eppure quando mangia tutta la roba che deve mangiare, allora gli do un pezzo di vita come prima. E lui è puro e sano. Molta volta lo scende giù. Ehi, gli fa fare la passeggiata, però molte volte se deve fare la pipì e si mette, si siede e abbaia, no? Allora gli dico, cosa che vuoi? Vuoi andare a fare la pipì? Allora lì, allora io prendo e gli apro la porta e lui scende. Ah, io stasera gli ho fatto fare un giro grande, gli ho buttato da 1 chilometro, gli ho fatto camminare da poco. E già arrivati lei. Io pure lo stesso, la mattina, la sera lo portiamo, capito? Però molte volte deve fare la pipì, allora già ti avverto, non fa niente questo in casa, no? Infatti, non devi portare. La mattina gli faccio un giro un po' grandetto e a pranzo gli faccio il giro qua vicino, passerà alle 5 lo porto, gli faccio fare una camminata da mamma, se non sta piovendo che gli dico una giornata come oggi. E la notte lo porto qua vicino. No, via volte solo noi lo facciamo, cioè, lo facciamo andare. E poi la mattina e la sera, dai. Poi quando si deve fare la pipì, per esempio, già ti avverte, scende, fa quello che deve fare e se ne sale. Da Zuri, si anda da Zuri, da Burubrigno. No, questa non la posso lasciare da sola, che se ne andate a cacciare gli altri. Invece questo, siccome quando era piccolino che me l'hanno portato, ci avevamo una gatta, ci avevamo. Non li tocca assolutamente i gatti questo. Vabbè, perché è piccolo anche lui, ecco cosa è. Mi è abituato allora a stare con i gatti. Ehi, ci avevamo una gatta, 12 anni ci aveva quando è morta, poverina, che si erano ammassate, no? Che di Rossella ne ha del buccone. Già noi sia, la di che città si era ammazzata, per già insinuare anche su un diavolo di Rurugu, figureggiati. Però lui quando ce l'hanno portato, no, c'era questa gatta e lui non li tocca i gatti, giocava col gatto, dimmi tu. Sì, no, c'hanno il coso di... i piccoli c'hanno il coso di giocare con i gatti, ma questo si butta con i gatti, si rabbunta e... No, questo non li tocca ai gatti, questo li rispetta ai gatti, la verità, perché è abituato da quando era piccolo a avere il gatto, infatti ne ha risentito quando è mancata la gatta che avevamo, era resa di grigi, di luci gelesti, che non c'era resa e saiata. Vabbè, la fanno per la pigliata. No, già basta, se no mi ci riuscivo a pure. Io vado a casa minori e quindi già basta lui, anche troppo. Già va bene così. C'è la compagnia almeno. Infatti. È un cane di fase di compagnia affettuoso, Il canarino c'ha un canarino, chi era una doppia la verità, solo che ha ammazzato la penna, allora è azzurra, lui si impara, non è azzurra a basso, no? Vabbè, dai, usci. Guardate che giroso, quando già un canarino, è geloso. Sei geloso di un canarino? Ehi, pure andando a pulirgli la gabbia, se aveva un di mano ce l'aveva mangiato. È geloso, ma la sorte, di tutto. Il cane, sì, quando dai attenzione al canarino, diventa geloso, sì. No, dico no, invece. Taglio di fare che cosa si buono in mezzo. Se ti sto dicendo, se lo chiamo il canarino, lui si mette a abbaiare perché è geloso. infatti che non si gaccurenda edo, ecco cosa è. Lo vede tu buru. E giro su transiti. Ma hai mangiato? Io quando c'è lui vado a dare un bacio a mia moglie. Adesso lo do. E dice, buono, in mezzo non vuoi, non vuoi, a che girosi. Vabbè, sono luci di animali, purtroppo. Sempre in coso di zecca che magna, perché mangiano te zecca. E chi ci vuole bene la roba, nella giotta la giulia, magna, quando ha finito di mangiare si posa davanti a me a chi vuole il primo, di Rusà. E allora io vado al trigo, gli prendo un pezzo di zucchero e glielo do. Però se si mangia tutto, Ma questo io gli sto dando le crocchelle, gli sto dando, mangia le crocchelle lui. Oh, visto, manca il consumo, mi devo dire. Se una volta ve la giudizio, guardi che non ne mangia, alle veterinarie, no? E tu l'ha dato dei crocchetti, manco una ne ha pigliato, non so di parte, ma che mangia chi su che mangio io? Luzzino, io sono anche figlio. Crocchetto non ne vuole, perché ha assaggiato la roba nostra che lui pensa deve essere che la roba nostra, quella che mangiamo noi, è più buona. E allora no, non ne mangia di crocchette, mangia sua roba e mangia. No, noi... Io l'ho abituato da piccolino a mangiare i crocchetti, le crocchette si mangia. Tante volte gli metto la carne che prendo in scatola per lui, per mangiare le crocchette. E... prima si mangia la gara, dopo il d'ora si mangia i crocchetti. Ma questo non è uguale, manca in fotografia di crocchetti. Credo con Zelli, lui mi, se guarda a vedere quello che mangio io, lui guarda a vedere cosa mi mette nel piatto a me. Se lo mangio io, allora lo vuole anche lui. Ma la roba che mangiamo noi molte volte a lui fa male, perché c'è sale, c'è anche altra roba in mezzo, quindi a lui fa male. E i zuccheri vazzimari. Oh, dai, già ne mettiamo poco di sale. E però lui vuole la roba che mangio io. No, non ne vuole, devo abbaidare a mia moglie di cosa mi pone nei rubiati. Abbaida un po' come cante più. Oh, che poi mangia. Ma purtroppo io non l'ho abituato alle crocchette e gli metto molte volte la carne a mangiarsi i crocchetti. No, è carne che è per lui e E anche io gliele do quelle scatolette, capitola, per non dargli la roba che mangiamo noi, se è roba che gli fa male gli do quelle scatolette, capitola, però lui vuole la roba che mangiamo noi, preferisce quella lì, ma ha ragione, c'è poche fuggi, ti credi che sia così? Vabbè, io me ne faccio in quel vetti che è venuta l'ora dei pavesini, ci sentiamo alle prossime, là. Mi ha fatto piacere, grazie per il questo è alle prossime. Ci sentiamo Natalie. Ok, ciao Natalie, stammi bene. E altrettanto, ciao, saluta Maggio Maria, se lo sento. Che sono anche io un bel po' che non lo so. Si entra, ma te lo saluto. Se no, pazienza. Andate, ciao. Ciao Natalie.